Racconti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo San Valentino, sabato 14 febbraio 2015 alle 10, 8 primi e 14 secondi, siamo in diretta in questo San Valentino, è il mio primo grande abbraccio, non è a quelli che sono innamorati, ma a quelli che non ce l'hanno l'amore, a quelli che sono stati delusi, traditi, calpestati, innanzitutto se sono donne. E qui Umberto, il solito coso, non ai maschi, però certo anche i poveri maschietti. Cioè, non mollate. L'amore non è credere in Matteo Renzi, è qualcosa di più serio, cari amici. Quindi, San Valentino, voi non dovete confondere le questioni politiche, si stanno picchiando in Parlamento. Come a me fa impazzire la minoranza PD che ha voluto appena eleggere con la maggioranza PD il capo dello Stato. Adesso protesta e fa pugni perché dice, dopo aver detto rompiamo il Nazareno, bisogna tornare a fare le riforme con Berlusconi, ma non è possibile. Comunque, un San Valentino buono a tutti, noi siamo qua, la nostra solita compagnia dei conti della Belva, quindi Oscar vi saluta insieme a lui, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Siccome San Valentino è un po' in ritardo perché questa notte avrà fatto qualche... No, naturalmente no, è in ritardo per i mezzi di trasporto, non esageriamo. Allora, come sempre, vi invito a telefonare 800 24 00 24 e darci le vostre opinioni al 349-238-6666 e molto rapidamente vi racconto i temi su cui iniziare a pensare di darci le vostre opinioni. Oggi avremo tre grandi blocchi di questioni, quindi vedete voi su quale volete telefonarci, perché potete farlo dalle 10 alle 12 a seconda di come siete messi. Lo so che oggi dovete andare a comprare i regalini per il vostro amore oppure dovete iniziare a mettere a parte i soldi per l'amore che fino a questo momento non avete trovato perché non avete più abbastanza denaro, come ovvio. Ma gli argomenti sono questi. Cominceremo con un blocco un po' controcorrente, ruvido, di polemiche, perché sabato scorso la grande kermesse che ha lanciato l'Expo che tutti aspettiamo da maggio a novembre, 20 milioni di visitatori a Milano e così via. Bene, noi vi chiediamo, ma voi volete davvero l'Expo che ci è sembrato di capire sarà l'Expo che pensa che il mercato ha creato la fame invece di risolverla, l'Expo diciamo dei luoghi comuni anti-OGM, di Bandana Shiva, non lo so, ecco, vi aspettate questo, è giusto dire questo? Questo deve essere l'Expo? E con che eredità, con che tipo di profilo, con che ricadute economiche per il nostro paese? Che messaggio diamo se è questo? A noi è parso di capire che è questo. Comunque, telefonate per dirci anche solo se avete dubbi o perplessità su quello che si fa per l'Expo rispetto ad altre edizioni, su quello che resterà dell'Expo, sempre che abbiate capito che cosa resterà, visto che non è ancora deciso. Eccolo. E eccoci qua, è arrivato, ci ha raggiunto anche Carlo Alberto Carnevale Maffè. E quindi primo blocco di questioni, diteci cosa pensate, cosa vi aspettate dell'Expo. Un bel secondo blocco di questioni riguarda invece lo stato delle banche italiane, perché abbiamo avuto un bel po' di bilanci chiusi in questi giorni ed è una situazione che secondo noi merita accenni critici. Eccoci qua, caro Alberto, saluta il membro della compagnia che è appena arrivato, saluta il nostro pubblico. Vi salutano i miliardi di perdite che abbiamo appena riconosciuto nei bilanci bancari. Ci siamo fumati un mezzo punto di PIL così, senza nemmeno ridere. Esattamente. E comunque, parleremo dei casi naturalmente del Monte dei Paschi di Siena, di Banco Popolare, di Banca Etruria commissariata, dello sberlona che Banca d'Italia ha appena dato all'intero sistema delle banche di credito cooperativo. Quindi, se guardiamo le 11 maggiori banche italiane, dalle bilanci che hanno appena chiuso e ci mettiamo le due, quelle che stanno meglio dentro, abbiamo che con un margine operativo di 23 miliardi ci sono comunque rettifiche per 25 miliardi e questa è la situazione in cui stiamo. Vi raccontano che il sistema bancario è il più bello del mondo, il più pulito del mondo, quello che meno ha avuto bisogno di interventi di Stato, ma è la verità? Ecco, secondo noi non è proprio così e quindi telefonateci anche su questo. Terzo blocco di questione, un'altra meravigliosa prova in settimana del paese in cui viviamo dal punto di vista tributario, la sentenza della Corte Costituzionale che boccia la Robin Tax, cioè la sovraliquota sul reddito delle imprese energetiche, che il signor Tremonti nel 2008 si era inventata perché gli stavano antipatiche e quindi il grande criterio era mi stai sul piffero e a te ti tasso di più, perché erano accusate di fare sovrapprofitti, capite? La politica decide lei che cos'è il sovrapprofitto, se non che questa tassa dopo anni viene giudicata dalla Corte incostituzionale, per fortuna, però il principio è che lo Stato tutto quello che ha incassato con una tassa illegale se lo tiene. Se poi, lo tiene. Poi non dimentichiamoci che quella tassa lì non andava ripartita poi sui consumatori, perché le aziende fanno beneficenza. Certo, mica la traslano. No. Comunque, se la tiene, provateci voi ad applicare una base imponibile illegale nella vostra dichiarazione delle tasse, e quando arriva l'agenzia delle entrate dite: beh no, ormai è passato, mica io te pago. Provateci voi. Voi andate in carcere mentre lo Stato vi fotte e si tiene i soldi. Parleremo anche di questo, ma a questo punto giro tra i miei compari su che cosa li ha fatti arrabbiare nella settimana. Carlo Alberto, cosa ti ha fatto arrabbiare? Mi ha fatto arrabbiare il clima di scontro che c'è nel Parlamento. Devo dire che è uno spettacolo veramente, veramente triste. Lo so che la situazione è forzata dai renziani da una parte, che vogliono andare dritti come un treno, e l'opposizione che non trova altro che fare gazzara, però non è un bello spettacolo, insomma. E in compenso una cosa mi ha fatto piacere, devo dire, sapete che sono un liberale digitale, una cosa è successa bellissima: un voto all'unanimità per trasferire allo Stato le competenze sui processi informatici. Ha fatto un piccolissimo modifica a Quintarelli esattamente come Antonio Palmieri, che finalmente ha raccolto tutta la sintesi e quindi avremo per una volta un piccolissimo passo in avanti, e lo Stato potrà standardizzare tutti i processi informatici. È un piccolo passo verso l'unità digitale d'Italia. Infatti è riuscito addirittura a far passare questo emendamento in Costituzione, facendo cambiare idea a tutta l'opposizione al governo, quindi onore a Stefano, onore a Stefano Quintarelli. Allora, Mario, a te. Ma per me è stata una settimana di serenità, diciamo, assoluta. No, sì, no, che è anche di buon umore, diciamo. La serenità si sostanzia nel fatto che ieri è terminata la recessione italiana. C'è stato questo poderoso zero del quarto trimestre, da meno 0,1 che si attendeva, è diventato zero, quindi finita la recessione, odo augelli far festa, diciamo. C'è stato anche il famoso lancio dell'ANSA, che è questa disciplina olimpionica in cui eccellono i parlamentari del PD, e ci hanno detto che è finita la recessione e tutto, certo, va bene. Poi certo, l'elemento di assoluto buon umore è stata la una frase che ho colto in un telegiornale ieri l'altro, ve la riporto letteralmente: Federica Mogherini, capo della diplomazia europea. Se una frase del genere non è in grado di farvi sbellicare dalle risa, rimane solamente la piuma e il solletico fisico. Beh, come è noto, era lei che ha inchiodato al tavolo Putin e Poroshenko questa settimana, mica la Merkel. Assolutamente. Non l'ho vista nella foto la Mogherini. Perché è un ruolo così importante che è come le nebbie a Milano, quando era perché era in Russia, allora hanno fatto, sai, quelle foto come facevano una volta, che cancellavano. Le hanno cancellate. Forse era travestita da centrotavola. Perché una diplomazia bisogna essere discreti, non così vistosi. Io devo dirvi la verità, che una delle cose che ho trovato più divertenti la settimana è stato il corteo dei vigili urbani a Roma. Il corteo dei vigili urbani che in difesa con slogan e cartelli, in difesa dell'assenteismo di massa, per il più ha anche bloccato il traffico. E questo mi sembra veramente il perfetto adempimento delle funzioni dei vigili urbani. E allora posso parlare delle lenzuolate offensive pubblicate, bravo, qui a Milano nei confronti di Benedetta Reseucini, che è l'amministratore delegato di Uber Italia, che è stata soggetta a un attacco vergognoso, vigliacco, da parte di qualcuno, non è sappiamo, fascista, e possiamo fascista, dire sicuramente, perché le cose vanno chiamate col loro perché nome, perché questa cosa è veramente intollerabile. Stando davanti, volevo esprimere la solidarietà tutta, bravo, mia e penso di tutti, sì, voi di tutti, no? Uber potrà avere una serie di contraddizioni, ma queste cose sono inaccettabili assolutamente, quindi siamo tutti Gesù e Benedetta, va bene? Okay. Per essere chiari, secondo me in questo caso bisogna raccontarlo il fatto: gli hanno appeso un lenzuolo di fronte alla linea elettrica, di fronte a casa, in cui qualche signor tassista, che a mio giudizio voglio sperare non rappresenti la categoria, dice: la signora Rese è una puttana, e riceve contatto di numero e indirizzo per l'assessore Maran, e il servizio è gratis. Allora capite che il maschilismo becero non batte il fatto che si tratta appunto di intimidazione puramente fascista. Questo è, non c'entra niente, e poi è un attacco personale, ma no, intollerabile, una cosa intollerabile. A questo proposito, infatti, taxi, Uber e quindi traffico, ci sentiamo tra 60 secondi. Della belva. È Eccoci qui, tornati in diretta a 10, 18 minuti, 30 secondi in questo San Valentino che vi viene dedicato qui dai compari dei Conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. Renato. E Oscar. Beh, siamo soggetti a un attacco di innamoramento anche di ISIS che si avvicina sempre più all'Italia e infatti non contento di stare con un califfato a Derna, adesso è a Sirte, quindi abbiamo il califfato a pochi minuti di aereo dalle coste italiane. Pensierino per il governo in carica. Cerchiamo di evitare il bis del 2011 quando l'Italia sulla Libia fu travolta da Francia e Gran Bretagna. Questa volta tentiamo di immaginare con un po' di anticipo come pilotare il concerto occidentale in sede ONU, Unione Europea, NATO. Questo messaggio in bottiglia perché riguarda noi, la questione dell'ISIS in Libia innanzitutto. Ricordo a tutti che dei 180.000 sbarcati sulle coste nel 2012, 150.000 vengono di là e invece di fare le polemiche interne su Tritono o Mare Nostrum tra Letta e Renzi, alziamo lo sguardo, guardiamo il mondo e capiamo che invece adesso di farci dire che cosa fare dovremmo essere noi i primi a ragionarci. Allora, primo blocco sull'Expo, quello che noi abbiamo chiamato l'Expo dei luoghi comuni. Allora, iniziamo a capire su questo che Expo volete. Alcuni dei più importanti lanciatori del messaggio una settimana fa in questa grande kermesse che c'è stato a Milano, e quindi sentiamo due dei punti di riferimento per capirci. Quindi iniziamo a sentire che cosa ha detto il Papa Bergoglio. E dunque è necessario, se vogliamo realmente risolvere i problemi e non perderci nei sofismi, risolvere la radice di tutti i mali, che è l'inequità. Per fare questo ci sono alcune scelte prioritarie da compiere: rinunciare all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e agire anzitutto sulle cause strutturali della inequità. Allora, questo è Papa Bergoglio che dice i mercati sono quelli che fanno l'iniquità, poi c'è un, tutto uno sviluppo del pensiero del Papa sul fatto che è la fame che viene creata dai mercati. Ecco, abbiamo sentito Papa Bergoglio in pillole. Un altro grande punto di riferimento, uno degli interventi conclusivi più coperti dagli applausi, quello di Carlin Petrini. L'insostenibilità di un sistema alimentare che non sta più in piedi, che fa acqua da tutte le parti, che genera questa situazione, ha un nome chiaro, preciso, si chiama libero mercato. Con quale baldanza possiamo gioire di andare verso un Expo, verso l'affrontare le tematiche del cibo, mettendo unicamente come elemento distintivo i milioni di turisti che arrivano portando denaro? Questo non è l'unica faccia dell'Expo, questa è una faccia dell'Expo, ma se noi non abbiamo a cuore quella dei contadini, dei produttori, degli allevatori, che sotto schiaffo del libero mercato non sono in grado di tirare a campare, e cosa possiamo dire nel Messico, dove è nato il germoplasma del mais e dove i contadini messicani soffrono di malnutrizione e di fame, perché il 37% di mais straniero, americano, geneticamente modificato, a prezzi più bassi, distrugge il mais nativo e mette in ginocchio i contadini messicani. Ecco allora che io vorrei un'Expo più sobria, meno attenta ai grandi padiglioni, meno attenta alla grande kermesse, meno attenta solo ed esclusivamente a una grande fiera del cibo, ma che abbia anche il coraggio di dire le cose come stanno e che si apra ai contadini, alle persone umili, che hanno il diritto di venire all'Expo, che non può essere un diritto solo per chi, come dite voi lombardi, tiene i danè. Anche loro hanno diritto a venire all'Expo, anche loro hanno diritto a vedere che cos'è la situazione oggi nel campo alimentare. Allora, Carolina Petrina, abbiamo faticato a isolare così un minuto e mezzo, perché è naturalmente trascinante, vedete che diventa una, tutti gli argomenti entrano, perché il mais, per così dire, come lo chiama lui, geneticamente modificato, ha questo torto, come dice Carolina Petrina, in effetti costa di meno, capite? E qui però non va bene per questo, geneticamente modificato nell'ambito dell'ideologia di questo Expo, che a me non piace, diventa il diavolo. e su questo onore a quelli che in Italia si battono per una corretta informazione scientifica. Minoritari perché il Consiglio di Stato ha appena confermato con grande gioia che in Italia il divieto di coltivazioni e aperta parentesi di ricerca su OGM chiusa parentesi è una cosa che ci rende fieri. Su che base? Naturalmente noi diciamo tutta questa serie di cose. Per aiutarci a capire abbiamo due ospiti in questa prima parte della trasmissione. È con noi Roberto Defez, che è un ricercatore del CNR, autore tra gli altri del caso OGM, il dibattito sugli organismi geneticamente modificati. Buongiorno e grazie a Defez. Buongiorno. Ed è con noi Giordano Masini, che è un non solo caporedattore e amministratore di Strade, e vi invito a leggerlo, adesso vi darà lui l'indirizzo preciso di questo giornale online dove c'è un pensiero eretical critico liberale, ma oltretutto nelle sue tante attività fa anche l'agricoltore e l'allevatore, quindi grazie a Giordano Masini di essere con noi. Buongiorno. Allora Giordano, cominciamo proprio da quello che hai scritto sul foglio. Tu hai scritto un titolo era che mi è piaciuto molto, che diceva no all'Expo dei luoghi comuni, era il titolo del pezzo che hai scritto. Perché no all'Expo dei luoghi comuni? Prima di tutto perché ne abbiamo sentiti tanti tutti insieme, diciamo, nella giornata di sabato. Ma perché secondo me l'Expo come si sta presentando oggi, appunto, è sostanzialmente una raccolta di un florilegio di luoghi comuni che non racconta l'agricoltura, non racconta l'economia dell'alimentazione, racconta più che altro di un mondo in cui se c'è fame si suggerisce di mangiare brioche piuttosto che trovare soluzioni concrete. Dal Papa che sostiene che viviamo il paradosso dell'abbondanza, che quindi se sprecassimo di meno i poveri del mondo avrebbero più da mangiare, come se ci fosse una relazione diretta tra le due cose, come se noi diminuiamo i nostri consumi qualcuno potrebbe beneficiarne. Da Lula che sostiene incredibilmente che c'è da mangiare in abbondanza per tutti, quando non è vero che c'è da mangiare in abbondanza per tutti, e spesso, come dimostrano anche le crisi alimentari, le impennate dei prezzi delle materie prime agricole del 2008, del 2011, spesso c'è stato addirittura più denaro che cibo, perché c'erano i paesi in via di sviluppo, la crescita dei paesi in via di sviluppo che guidava tutto sommato una fortissima domanda di generi alimentari che la produzione non riusciva ad alimentare. E quindi quest'idea di fondo che poi no, non bisogna parlare di quantità, dar da mangiare alla gente non è un problema di quantità, secondo me bisognerebbe parlare di qualità solo dopo aver risolto i problemi della quantità. Finora, diciamo così, il mercato, l'economia che uccide, come quello di cui parla il Papa, è riuscita a trasformare il pianeta dagli anni 60 a oggi. Negli anni 50 mangiavamo erano come dire 1,5 miliardi di persone su 2,5 miliardi di abitanti ad avere abbastanza da mangiare. Ora siamo 6 miliardi che mangiano su 7 miliardi di abitanti, quindi penso che sostanzialmente l'economia che uccide è un'economia che in realtà ha dato da mangiare a molta più gente di quanto non fosse stato possibile nei millenni precedenti. Ah, non c'è dubbio, perché quei 4,5 miliardi hanno migliorato la loro capacità di accesso media quotidiana al cibo, al bilancio calorico, grazie al mercato, non perché il mercato gliel'ha impedito e li uccide. Però questo è un punto di fondo dei tanti grazie al progresso, esattamente, grazie alla ricerca, e qui andiamo a una delle questioni più delicate, quelle dell'ideologia anti-OGM, che è diventata però l'ideologia che ispira il nostro ordinamento, le nostre scelte legislative. Onore ai pochi matti come Giorgio Fidenato, l'agricoltore friulano, che continua instancabilmente a provocare, per così dire, le scelte pubbliche italiane, continuando appunto a tentare di seminare e coltivare seminativi o OGM, e di volta in volta viene naturalmente sottoposto a distruzione dei campi e poi a sentenze che danno ragione a chi glieli distrugge. Però la questione è, caro Roberto Defez, ricercatore, che cos'è che spiega il fatto che in Italia è così diffusa e di massa la semplificazione antiscientifica pregiudiziale e ostile contro gli OGM? Perché gli articoli di una Elena Cattaneo, senatore a vita ricercatrice, a cui rendiamo tutti onore per l'instancabilità con cui alza la bandiera, finiscono nelle pagine interne come dire vabbè, ma la signora Cattaneo è una vecchia fissata, tutto sommato, lasciamola parlare, tanto poi non si schioda dal no OGM. Cosa c'è sotto? Beh, c'è un gigantesco accordo del silenzio su questa storia. Da un lato noi vietiamo tutte le coltivazioni e tutta la sperimentazione in campo per la scienza pubblica, I ricercatori pubblici non possono fare quello che si può fare in Francia, in Germania o in Inghilterra. E contemporaneamente l'Italia consuma 10.000 tonnellate al giorno di soia geneticamente modificata. Quindi la congiura del silenzio sta esattamente in questa follia. Noi dipendiamo per tutte le nostre produzioni di più alta qualità da mangimi fatti con OGM che ci arrivano dall'altra parte del mondo. Visto che abbiamo parlato del Papa, il 99% della soia argentina è geneticamente modificata. Il Papa non ha maledetto gli OGM, anzi, nell'unica occasione in cui si è trovato di fronte a un organismo geneticamente modificato, che è il Golden Rice di Ingo Potricus, ha benedetto il riso geneticamente modificato. Il paradosso italiano sta tutto in questa congiura del silenzio. Si devono importare a milioni di tonnellate, dobbiamo farci il più prestigioso made in Italy che esportiamo nel mondo e che tiene in piedi male la bilancia dei pagamenti agroalimentari italiana, che ricordo è sempre in rosso tra i 4 e i 6 miliardi di euro l'anno tutti gli anni. Quindi noi esportiamo prosciutti, formaggi per circa 2 miliardi di euro, ma tutti questi derivano da allevamenti nutriti con OGM. Quindi siamo dipendenti dall'estero, non li vogliamo produrre in casa, il che significa che leghiamo... Lei lo sa che non produrre in casa ha alla base questa convinzione di fondo che, per principio di precauzione, visto che non è scientificamente comprovato da nulla, meglio non farlo, perché questa sarebbe una minaccia pericolosissima di ultracorpi alla nostra biodiversità naturale. Viva la natura! Io mi vergogno di una persona che sostiene una cosa di questo genere. È una persona abietta, perché se fosse vero che fa male alla biodiversità, fa male anche alla biodiversità brasiliana, statunitense e argentina. Allora, se quel prodotto fa male all'ambiente, lo fa male in tutto il mondo. E io, così come non volevo, come dire, importare i palloni da calcio cuciti da bambini schiavi con le loro piccole ditine, perché ero comunque, come dire, l'utilizzatore finale di quella porcheria, se fosse vero che fanno male alla biodiversità, all'ambiente e a tutto il resto, dovrei vietare l'importazione di quei prodotti. Non è che siccome lo faccio dall'altra parte del mondo va bene. Quindi chi dice queste cose è semplicemente un bugiardo. Punto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi di Scipio finita e la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta, 10:36, primi 17 secondi, saluti dai compari dei conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. Renato. Oscar, e naturalmente anche un saluto ai seguaci di alcuni guru che ritengono che questa nostra sigla sia diffamatoria dell'Italia, che loro invece difendono con proposte, perché loro sono per il no euro, perché vogliono fare i superministri imperatori stabilendo per qualche anno quante banche teniamo chiuse e a che cosa. Non credo che avverrà. Comunque no, non è un inno che intende mancare di rispetto all'Italia. Per noi è mancato cade rispetto all'Italia e chi la riduce con questi provvedimenti così. E oggi ne daremo un altro esempio, proprio in materia fiscale. Se vi sfugge l'ironia, cari seguaci di Guru, cambiate guru e leggete qualche altro libro, perché ci sono economisti in cattedra italiane che hanno definitivamente perduto la testa, perché prima ce l'avevano, e noi continueremo a leggerli, a stimarli. Comunque, messaggio per chi voleva capire: ha capito perfettamente e ora reagirà. Ma detto tutto questo, torniamo all'argomento di cui stiamo parlando, cioè l'Expo dei luoghi comuni, che per troppi versi non ci è piaciuto sabato. Uno di questi è quello lanciato dal ministro Martina: il diritto al cibo in Costituzione. Ora, io la domanda che faccio è: questo il punto di fondo delle riforme italiane? Carlo Alberto, che dici? Ma guarda, ovviamente è una proposta ideologica quella di Maurizio Martina, e ovviamente portare il cibo allo status di diritto costituzionale è francamente oltre ogni logica. Però posso dirti una cosa: a me non dispiace il fatto che si riapra un dibattito sull'agricoltura e sulla centralità dell'agricoltura in questo paese. Quindi, modalità secondo me sbagliata e probabilmente un po' strumentale, ma il tema è rilevante. Il problema qual è? Che l'Expo veramente è un po' una kermesse, tra l'altro tutta italiana. Ho visto ieri le cifre e in realtà ci aspettiamo la gran parte dei visitatori italiani. A 14 su 20 milioni cioè sono nessuno, nessuno. Cioè, ce l'hanno venduta come un modo per attrarre dal mondo e far parlare l'agricoltura italiana. In realtà è un po' ce la cantiamo, ce la suoniamo tra di noi, ecco. Ed è un vero peccato, perché in realtà sappiamo molto bene che l'agricoltura italiana ha dei problemi di marketing, di branding. E qui fammi dire una cosa importante: c'è un tema, diciamo, strategico. Gli OGM sono un dibattito scientifico e tecnologico, però sono anche un tema di branding e di immagine, e quindi di se vuoi, di riconoscimento dell'origine. E io tutto sommato non posso completamente negare le obiezioni di chi mi dice: io faccio biologico e voglio difendermi. Semmai spostiamolo da una guerra di religione, OGM sì, OGM no, a come facciamo a promuovere in maniera trasparente, senza menzogne, il brand, il certificato di origine in tutto il mondo, però essendo appunto completamente e perfettamente trasparenti. Lasciami dire che questi sostengono invece che fanno male. Allora, siccome elevano la produttività escludendo la credibilità per alcuni agenti su ciò che si semina, e a oggi, lo richiederemo al Defez, noi non abbiamo alcuna evidenza scientifica, esatto, di rischio o pericolo, questi raccontano cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi, sì, però le battaglie di religione non mi sono mai piaciute. Ho capito, preferisco... ma in Italia noi cioè, abbiamo Italia, uno Stato in che ci noi non facciamo altro che battaglie di religione, che poi alimentano alcuni soggetti che sono psichicamente fragili, e gli esiti li abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, o li leggiamo sui nostri Twitter. Cioè, capisco essere puro, Carlo Alberto, però la realtà è quella, eh? No, però io tutti gli anti-OGM, che ovviamente non hanno basi scientifiche, sembra che quasi dovessimo essere noi a dover dimostrare che non fanno male. È impossibile dimostrare che non fanno male, possiamo al più non avere evidenze che facciano male. Ecco, è un po' come la consulta per cui devi dimostrare di non aver fatto il trasferimento di prezzo. Quindi sai che il principio di precauzione viene brandito in questo paese da ampi strati, diciamo, di commento pubblico come diritti acquisiti. Se fate caso, no? C'è questo parallelismo pressoché perfetto. C'è questo principio di precauzione. Visto che la pietra dello scandalo è il mais geneticamente modificato Monsanto, sul quale c'è oramai anni, certo, moltissimi anni di assoluta mancanza di evidenze di nocività, e questo lo si dice in ogni sede scientifica, non lo dico io che di queste cose so assai poco, come la quasi totalità di quelli che mandano messaggi insultando, tra l'altro, quindi siamo sullo stesso piano, con la differenza che io non insulto. E quindi qui abbiamo il principio di precauzione che viene brandito, no, come una scimitarra ideologica, per cui alla fine noi finiremo la trasmissione, finiremo anche i nostri giorni, e comunque il paese continuerà allegramente a trotterellare con le sue guerre di religione. È una sorta di grande divertissement questo qui, diciamo. Una cosa che mi chiedo è: il mais che costa meno avvantaggia i poveri o avvantaggia i ricchi? Ma che c'entra? Avvantaggia le multinazionali, secondo il pensiero dominante. Se solo metti così la domanda, sei un servo dello Stato imperialista delle multinazionali. Ah, sì, ti ricordo la vecchia sigla, sai, di quando eravamo giovani. Allora, sentiamo qualche nostro ascoltatore, poi torniamo ai nostri ospiti. Cominciamo con Giuseppe da Varese. Giuseppe. Pronto? Eccoci qua, sì, prego. Vai. Guardi, tanto buongiorno Gianni. Buongiorno. Io volevo intervenire semplicemente per dire questo: tutto quello che sto vedendo all'Expo mi sembra che sia totalmente concentrato sulla tecnica. ignorando completamente quella che è l'origine di tutto questo. Cioè, non so se riesco a spiegarmi bene. Proviamoci in breve, sì. Velocemente. Cioè, questa nostra eccellenza, questa, tutto questo discorso sul non spreco, OGM, non OGM, risparmiamo, tutto sembra una tecnica, ma si ignora completamente che tutto questo può nascere, crescere solo e soltanto se c'è un soggetto educativo che lo promuove e che poi c'è già, perché la nostra eccellenza culinaria deriva sostanzialmente da una tradizione che, partendo dalla famiglia, che è il luogo educativo, non soltanto quello evidentemente, io parlo di famiglia in generale, non voglio fare distinzioni anche se ho un'idea estremamente precisa. Ok, però Giuseppe, ti sintetizzo, tu vorresti un pochino che si parlasse della civiltà del mangiare e della tendenza educativa piuttosto che ridurre la questione tecnica. Giuseppe, sono d'accordo con te, ma a patto di non raccontare che il nostro paese crede che sia il mercato a creare la fame, quando il mercato ha creato una sostenibilità sconosciuta nella storia di questo pianeta per miliardi di persone aggiuntive di questo pianeta, e lo ha fatto in pochi decenni. Questo vale come i redditi medi e mediani, questa è anche la risposta a Piketty, per essere chiari. C'è una distribuzione iniqua del reddito? Non lo so, però i medi e mediani sono cresciuti nel mondo in una maniera che prima non aveva precedente. A me questo interessa, perché io voglio guardare la diseguaglianza non solo nei paesi avanzati dalla fine del Settecento a oggi, voglio guardarla nell'intero complesso del mondo, cari signori in ascolto. Sentiamo Luigi da Milano, come la pensa? Luigi, prego. Buongiorno a tutti. Sì. Guardi, io non voglio entrare nel merito delle tematiche dell'Expo, perché chiaramente chi le ha studiate saprà cosa sta facendo. Io volevo solo soffermarmi su questo. Sì. Se mancano 2 mesi all'Expo, io passo abitualmente lì davanti, ho esperienze di costruzione perché mi sono occupato in passato di quello, però deve essere un miracolo se riescono a finire le strutture per l'Expo, perché sono indietro come la coda del cane nei lavori. Mancano 2 mesi, poi bisognerà dare un po' prima i padiglioni agli espositori per formare il personale, per formare i flussi, per... Io li vedo molto ottimisti, hanno traslasciato il punto di vedere se la struttura sarà pronta per lei lo sa, questo onore a Sala, Giuseppe Sala e alla sua ristretta equipe che, malgrado scandali, indagini, inchieste, imprese colluse, politici con mazzettari, riuscirà in qualche modo a venirne a capo. Sa che da diversi mesi sono sui 3 turni, vedremo. Anch'io quando vado e passo la penso come lei, è il solito miracolo all'italiana. I politici hanno perso 3 anni di tempo per la questione delle aree, di chi ci metteva i soldi, questo, non dimentichiamoci che, come sempre, all'origine la politica adesso dirà che è colpa dei tecnici che vengono dalle imprese private messe alla guida di Expo, ma loro hanno perso 3 anni a farsi le seghe su "io sono io che ci devo mettere i soldi perché il padrone devo essere io". Si vede adesso che poi bisognerà decidere il riutilizzo, non sanno che farsene perché è stato così caricato di sovraccosti che adesso voglio vedere chi li tira fuori quei soldi per un utilizzo produttivo di quell'area sul post Expo, tanto per dirne un'altra. Io vorrei tornare da Defez, perché lei ci deve consentire una qualche risposta a tutti quelli che ci stanno mandando del tipo, ne leggo alcuni dei nostri messaggi: buongiorno cari lobbisti, non parlate quando non conoscete gli argomenti, chiamate il professor Gianni Tamino perché gli OGM sono assolutamente antieconomici, eccetera eccetera eccetera. Come al solito veniamo coperti di insulti, di commenti sul fatto che saremmo dei servi delle multinazionali e soprattutto di diffondere l'ignoranza per far male alla gente. Allora Defez, per favore, ricordi i suoi titoli, lei è un ricercatore e lei che cos'è, pagato dalla multinazionale, oppure chi ragiona in questi termini è evidentemente un po' obnubilato? Ci aiuti a capire. La mia risposta a queste frequenti obiezioni è: volesse il cielo che le multinazionali mi pagassero, sono totalmente inutile, anzi, quello che scrivo è contro le multinazionali, e sono 2 tipi di multinazionali, perché qua faccio sempre finta di non saperlo. Certo. Ossia le sementiere statunitensi che hanno i brevetti e i semi OGM, ma questi brevetti servono a ridurre l'utilizzo della chimica e dei pesticidi e degli agrofarmaci. Guarda caso, le prime 3 multinazionali al mondo per la produzione degli agrofarmaci sono tutte e 3 europee. Quindi ribaltiamo la cosa. Non mandarla a dire sì, io sono servo di una, loro sono servi degli altri. Forse potremmo alzare un po' il livello del dibattito. Allora, una brevissima risposta intanto su biologico e OGM. I primi 4 paesi al mondo per la produzione di biologico biologico, coltivano anche OGM. È dimostrato che l'utilizzo di OGM aiuta il biologico, perché siccome abbatte una serie di parassiti che attaccano anche il biologico, di rimando anche i coltivatori biologici hanno vantaggio dal fatto che ci sono meno parassiti e non ci sono i pesticidi. Tanto per dare i numeri, l'Italia usa sui suoi terreni tutti OGM free 2,5 volte più pesticidi degli Stati Uniti. Lo so, beccatevi i pesticidi, cari amici del no OGM, cari fan di Petrini. È divertente sentire queste storie, ma francamente è molto lontana da questa storia. Poi lei a un certo punto ha detto il mais OGM Monsanto. Io mi permetterei di dire Monsanto col diretti, perché se Monsanto li produce, col diretti li vende nei suoi consorzi agrari. Esattamente. Da del direttore della Coldiretti Friuli e della Coldiretti Pavia, che ha detto non solo che li vende, ma che lui come allevatore li utilizza. Certo. Allora è un po' strano che poi vadano lì a mandare la gente a distruggere i campi di Fidenato. Non so se voi che siete in ascolto capite. Sembra un po' strana tutta questa storia, francamente. Strano, sì. Ecco, se Coldiretti volesse, come dire, chiarirsi questo dibattito che la vede coinvolta in questi giorni, al quale pare che i suoi dirigenti prendano oltre €1 milioni di stipendio l'anno, è sorprendente che un sindacato grande risposte concrete, come vedete, cari ascoltatori. Poi liberi ciascuno di pensarla come volete, noi liberi di organizzare una micro recinto qua di informazione che non si mette sull'attenti di fronte ai luoghi comuni anti OGM, e noi siamo solo preoccupati, con tutto rispetto per gli amici che lavorano in Expo, per un Expo che venga ideologicamente bollato in termini unilaterali. Intanto grazie a Defes, e un secondo facciamo dire, com'è, ricordiamo l'indirizzo della testata, Giordano Masini, com'è la testata? Stradeonline.it. Ecco, leggetela, cari ascoltatori, perché troverete un po' di... Posso dire una cosa al volo? Al volo, di. Su quello che si diceva prima sul rapporto tra l'agricoltura OGM e l'agricoltura tradizionale o biologica, che creerebbe problemi di branding all'agroalimentare italiano, che è una delle obiezioni tanto più diffuse, no? Quella che si dice, sì, l'Italia non ha bisogno di OGM, eccetera. Dunque, a parte che in Italia c'è la Fiat e c'è Brunello Cucinelli, e non credo che uno abbia problemi dalla presenza dell'altro, perché c'è un'immagine di Made in Italy artigianale che non è intaccata dal fatto che esista anche industria pesante in questo paese. Però adesso ripeto dei numeri a mente perché non ce li ho davanti agli occhi, però il fatturato di qualità, diciamo, dell'agroalimentare italiano è all'incirca, mi sembra, il 5% del fatturato complessivo dell'agroalimentare. La maggior parte degli agricoltori lavorano per l'industria, naturalmente. È quello che succede in tutto il mondo, cioè non è che gli agricoltori improvvisamente, perché esistono dei prodotti tipici in Italia, ovunque debbano mettersi a fare le stesse cose o abbiano l'opportunità di fare le stesse cose. Di questo 5%, all'incirca l'80% è grana padano, parmigiano reggiano, i due prosciutti, mozzarella di bufala, cioè comunque tutta una filiera che dipende dalla mangimistica OGM, in ogni caso, che importiamo e che non possiamo coltivare. Quindi c'è la possibilità, chiaramente, che i due sistemi coesistano. L'importante è che non si raccontino frotte. Lo so, però sono quelle che ispirano ancora oggi le scelte del governo, della maggioranza, del PD e quelle della giurisprudenza italiana. Su questo chiudiamo questa parte della trasmissione dedicata ai luoghi comuni di Expo e torniamo tra poco. Della belva. Eccoci tornati in diretta in questo San Valentino vibrante sabato mattina, in cui tutti gli innamorati e coloro che ancora credono che sia giusto cercare l'amore, e li abbracciamo tutti idealmente, e noi però tentiamo di farvi incazzare con un po' di letture controcorrente. Quindi saluti dai compari dei Conti della Belva, caro Alberto, Mario, Renato, ed eccoci qua dopo questa lettura un po' critica delle impostazioni ideologiche iniziali di Expo. Andiamo a una vicenda che questa settimana Però scusa Oscar, devo chiudere una cosa su prima. Ci sono molti ascoltatori che ci scrivono il problema degli OGM sono anche i brevetti, i vincoli di proprietà intellettuale che le grandi multinazionali mettono di sopra perché vogliono continuare a guadagnarci e ci vendono temi sterili. È un po' la stessa obiezione che si fa da aziende farmaceutiche. Voglio ricordare che anche l'indicazione geografica protetta, anche la protezione dell'origine è una forma di protezione di proprietà intellettuale, no? Quindi è vero che chi fa ricerca, secondo me, ha diritto ad avere una protezione legale, ma è anche vero che anche i nostri agricoltori, diciamo, delle zone di origine, tutto sommato, hanno sempre chiesto una protezione legale per non essere imitati. Ma allora, poi, in ogni caso, qui noi non stiamo oggi parlando di limiti o evoluzione della proprietà intellettuale, perché altrimenti questo è un discorso più ampio. Qui stiamo parlando del fatto che si dice no OGM perché sono pericolosi. Lo so. Pericolosi e sono al servizio di una visione imperialista, internazionalista. Peccato che i pesticidi di cui facciamo abbondanza sono invece in Europa e ci piacciono tanto. Comunque, se posso dire una cosa, visto che di macchine agricole qualcosa capisco, vendendole in qualche paese intorno nel mondo, il reddito medio dei contadini a livello mondiale è salito negli ultimi anni. Tanto è vero che si possono permettere le mie macchine, non quelle cinesi. Ecco, cosa che a noi piace sottolineare, capite? Non è che qualcuno li sta sfruttando. Meglio così. Però, detto questo, siccome noi vogliamo parlare di più argomenti, questa settimana c'è stata una bella sentenza della Corte Costituzionale che deve farci tutti riflettere sui fondamenti del nostro bello ordinamento fiscale. È una sentenza su una sovraimposta che riguardava le imposte energetiche sopra una certa soglia di reddito, e c'era un addizionale sull'imposta del reddito aziendale sul DIRES, un addizionale in quanto imprese energetiche. L'ideatore di questa norma, chiamata Robin Tax, perché Robin Hood, il bel Robin Hood che leva ai ricchi per dare ai poveri, era l'apostolo della politica economica del centrodestra di questi anni, il signore che le tasse non le ha abbassate dopo averlo promesso due volte e che ha fatto correre la spesa corrente, era il signor Tremonti. Qui abbiamo un audio di Tremonti che chiaramente spiega in che cosa consisteva questa sua Robin Tax. L'avevo detto in campagna elettorale, l'ho detto nell'incontro alle parti sociali, ne abbiamo parlato anche oggi. Non c'è nulla di definito, ma a noi sembra che, dato il drammatico bisogno che c'è da parte degli strati più deboli della popolazione, forse anche una forma di prelievo Robin Hood di questo tipo c'ha senso. Invece no, perché è evidente che lo Stato non può permettersi di dire: siccome mi stai sul cazzo, allora io ti tasso di più. Ci dovrebbe essere un piccolo criterio, no? Leggermente generalista nell'indicazione delle basi. Se no avrebbero tassato il 99,9% Mediaset. Ma detto questo, dopo anni la Corte Costituzionale, questa è una scelta politica del 2008, dal 2015 la Corte Costituzionale questa settimana prende una bella decisione e finalmente dà ragione a quorum ego, ma qui siamo in diversi, ma pochi, che in Italia erano insorti contro la Tremonti Robin Tax, e la tassa è incostituzionale. Se non che, cari amici, lo Stato tutto il gettito, circa 10 miliardi incassato in questi anni, se lo tiene in tasca e non lo restituisce alle imprese private. Siamo al principio del chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto, caro Oscar. Questo è il concetto, no? Lo Stato si inventa una tassa anticostituzionale, tanto può contare sul fatto che la consulta ci mette 3 o 4 o 5 o 6 anni, dopodiché la tassa viene cancellata da lì in avanti, però il gettito della belva. Eccoci tornati qua in diretta alle 11:08 primi, proprio in linea con le ultime parole del nostro modificato inno nazionale. Pagare fino alla morte, tanto è che quando anche la Corte Costituzionale a 7 anni dall'introduzione boccia perché incostituzionale il parto del fervidamente di Tremonti, cioè la Robin Hood Tax, la sovrimposta sulle imprese energetiche sotto una certa soglia, boccia, però lo Stato si tiene, per la stessa sentenza della Corte, tutto rincassato in tasca. Stavi dicendo, caro Alberto? Sì, stavo dicendo del chi ha dato chi ha avuto. A questo punto stiamo creando per il governo un bellissimo incentivo a dire: sai che c'è, se facciamo così, io faccio una bella patrimoniale ordinaria, no Mario? e la incasso per 4-5 anni. Sì, poi qualcuno ricorrerà alla Corte Costituzionale, poi magari la Corte Costituzionale mi darà anche la ragione, ma intanto io ho portato a casa. Esatto. Ho ritagliato oggetti. Lo Stato viene legittimato. Stiamo creando un precedente gravissimo. Sia chiaro, la bocciatura della Robitax è giusta. Ma la non retroattività applicata sulla base di criteri macroeconomici assolutamente vaghi da parte della Corte Costituzionale, francamente crea un precedente gravissimo, perché dà un incentivo ai governi a usare questa finestra per tassarci allegramente con tasse incostituzionali e risultare del tutto impuniti. Tra l'altro la Corte Costituzionale ha addirittura applicato l'articolo 81 modificato, quello sul pareggio di bilancio, addirittura dal 2008, quando l'articolo è del 2012, tanto per farvi capire. Quindi, poi in ogni caso non vedo che cosa, perché qui abbiamo un componente del governo, Morando, chiederei su questo un commento a Mario Semineri, il quale naturalmente ha salutato questa sentenza della Corte Costituzionale dicendo: per la prima volta finalmente una sentenza della Corte che non è additiva, cioè non crea ulteriori squilibri alla finanza pubblica, che non scassa i conti pubblici, ma finalmente una sentenza, pare quasi che sia una sentenza liberale quella, per cui Stato non ti ripaga. Ma Morando notoriamente era l'ala liberal, no, della sinistra italiana, quindi probabilmente aveva qualche debito formativo da colmare sui principi liberali. Comunque dichiarazione veramente sconcertante. Il nuovo articolo 81 della Costituzione funziona perché permette di non scassinare i conti dello Stato. Ma se ragioniamo in questa maniera, cioè voi capite che non è più questione di certezza del diritto, di principi liberali. Siamo proprio ad un Leviatano che fa quel cazzo che vuole, cazzo su che base giornaliera. Io ribadisco, vorrei capire perché il vice ministro Morando ha ritenuto di lanciare una dichiarazione di questo tipo, peraltro pubblicata in pompa magna sul sito del MEF, malgrado le tardive pezze messe dal portavoce del ministro Padoan, che ha detto è la dichiarazione personale del vice ministro, quando invece era ficcata lì in un contesto istituzionale. Chiediamo lumi, perché questa è una cosa oggettivamente inquietante, e anche il balletto che viene fatto intorno di gioia, no? Di danza della pioggia propiziatrice, è ancora più inquietante, perché qui stiamo veramente, abbiamo rotto il muro del suono se andiamo in giro a magnificare un provvedimento di questo tipo. Direi di sì. Rispostina personale Enzo da Milano, che mi insulta dicendo che non ho la schiena dritta, che sono un servo. Enzo, cambia radio, oppure perdona, perché questi sono insulti personali da querela. Ci abbiamo anche il numero di telefono, non si può scambiare gli insulti personali con un'opinione, chiaro? Una cosa, pensa, Oscar, scusate, una cosa, io vorrei dirvi: siete liberi di esprimere il vostro dissenso, chiaramente, però entro dati limiti, no? Perché ricordate che alla fine i vostri numeri di cellulare sono qui acquisiti. Quindi, ok, poi magari non invocate la privacy quando qualcuno vi apre da sotto in sopra, mi raccomando. Le opinioni mi sono raccomando. Opinioni, ma gli insulti sono insulti. Allora, restiamo su questa roba della Robin Tax. Io continuo a dire a chi è in ascolto: i privati non possono fare cose simili. Per esempio, un esempio: le aziende private hanno visto come era legittimo e giusto da parte dell'autorità di settore, la GCOM, nelle telecomunicazioni, rivedere al ribasso le tariffe di terminazione per 3 anni, dal 2009 al 2013, e questa delibera è stata formalizzata poi l'anno scorso, 2014. Bene, quelle aziende, Telecom Italia per prima, hanno dovuto rimettere mano ai soldi e ripagare e ridare soldi. Non è che hanno potuto dire: beh, no, insomma, quei soldi sono incassati e noi a questo punto non ridiamo i soldi. Ridanno i soldi, come ovvio. Quando un contribuente, se si applicasse una base imponibile sbagliata o illegale, se lo facesse per frode per anni e poi viene pizzicato l'agenzia delle entrate, non è che l'agenzia delle entrate che ti chiede di ripagare con gli interessi e la sanzione, e si va anche nel penale, e tu gli dici: no, ma il passato è passato, non va mai il pago. Bilancio l'ho già chiuso, chiusi tutti. E lo Stato sì, ma perché? Allora, facciamoci raccontare il perché, il per come e le conseguenze da un ospite, il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Buongiorno e grazie professore di essere con noi. Buongiorno. Allora, lei su questa sentenza è uno dei pochi che è immediatamente stato critico, quindi ce la teniamo cara e stretta. Ma come mai siete così pochi a criticare? Ah, questo è difficile dirlo. A mio avviso la norma, diciamo, dichiarata incostituzionale era tale fin dall'inizio, cioè io avevo scritto fin dal 2008 che una misura selettiva di questo tipo non poteva stare in piedi, perché violava il principio di uguaglianza tributaria, ma sotto diversi profili, perché come avete ricordato si tratta di una misura che colpiva soltanto un settore, poi nel 2011 la estesero alle imprese dell'energia oltre a quelle del settore petrolifero, ma colpiva un settore specifico, sulla base di una presunzione che nel 2008, grazie agli elevati prezzi del greggio, ci sarebbero stati dei profitti abnormi, anomali in quel settore. Anche lì, mi lasci dire, il professor Tremonti diceva che era la speculazione finanziaria che prevaleva nella determinazione rispetto alle curve di domanda e offerta, e quindi quei profitti da speculazione finanziaria che contribuivano a formare non marginalmente il prezzo del petrolio andavano sovrattassati. Un altro delirio, e poi che lo dica un ministro di destra, doppio delirio. Chiusa parentesi, ma vada avanti lei, la mia opinione è questa. Sì, questo diciamo assunto poi era smentito però anche nella progettazione concreta della norma, che non andava a individuare degli asseriti sovrapprofitti, la cui determinazione peraltro è difficilissima, ci hanno provato in passato, perché tasse di questo tipo sugli extraprofitti hanno dei precedenti nei periodi bellici, iniziarono le famose war profit tax, poi estese e mantenute per qualche anno dopo i tempi di guerra, ma poi cancellate perché ingestibili, perché stabilire un sovrapprofitto significa stabilire qual è allora il livello di profitto normale, occorre farlo in relazione a settori che sono diversi per rischio, per capitale investito, per sotto diversi profili, quindi diciamo era una cosa difficile da concepire e poi fu concepita male secondo me, perché non andava a tassare con un'aliquota maggiorata la sola quota di extra profitto, ammesso che si riuscisse a misurarla, ma tassava con un'aliquota più alta l'intero utile prodotto. L'intero utile. Quindi, detto diciamo, questo, ha ribadito che quindi c'era chi lo diceva fin dall'inizio che era incostituzionale, resta che sta sentenza dice lo Stato quello che ha preso non lo restituisce. Ecco, e questo è l'aspetto più, come avete detto voi, più inquietante, perché diciamo non sorprende la declaratoria di illegittimità, che tutto sommato ci stava e io me l'aspettavo, e la cosa che diciamo mi ha fatto saltare sulla sedia è a metà sentenza, quando inizia a dire quello che avete descritto voi, cioè che è vero, è incostituzionale, viola il principio di uguaglianza tributaria, ma che tuttavia la restituzione delle somme incassate creerebbe uno squilibrio nei conti dello Stato che dovrebbe essere colmato con un'ulteriore manovra che andrebbe a carico di altre categorie sociali, e quindi si creerebbe una redistribuzione, diciamo, che viola il principio di solidarietà. E quindi la Corte Costituzionale sta facendo politica economica, perché di questo capisce? Sì, assolutamente sta facendo politica economica, si sta facendo carico di un problema che spetta al Parlamento, perché se un'imposta è incostituzionale si rimedia con una nuova legge che al limite, dico, potrebbe pure ridurre le spese, no? Ma volendo anche restare nell'ambito di una nuova misura di tassazione, si crea un'imposta che rispetti i principi. Ma non c'è verso, secondo lei, nell'ordinamento di trovare un modo di opporsi in base a qualche principio costituzionale a una decisionalità di questo tipo, asimmetricamente favorevole sempre e solo all'Stato in materia tributaria? Ah, questo è un altro tema che ogni tanto mi sento chiedere, è molto complicato. Ho visto dei precedenti, uno recente, di un caso ungherese, di una cittadina ungherese che era una dipendente pubblica a cui avevano applicato un'aliquota confiscatoria del 98% sulla buona uscita, dopo vari tentativi con il sistema di ordinamento interno si è rivolta alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e ha invocato la violazione di una norma del protocollo alla CEDU sulla tutela dei diritti di proprietà, e la CEDU le ha dato ragione. Siamo una strada, diciamo, abbastanza difficoltosa, ma credo che l'unica tipo di rimedio potrebbe essere quello europeo. E secondo me, se posso aggiungere la cosa, diciamo che è abbastanza pure fa molto riflettere, è che in recentissimi casi, parlo di casi del 2012 e del 2013, di fronte a situazioni più o meno identiche, mi riferisco al contributo di solidarietà sulle pensioni dei dipendenti pubblici e ai tagli stipendiali ai magistrati riqualificati dalla Corte come tributi, la Corte da un lato ha affermato la violazione del principio di uguaglianza tributaria, così come ha fatto oggi con la Robin Tax, ma non ha affatto limitato gli effetti della propria sentenza, e ha detto lo Stato l'imposta è incostituzionale e devi restituirla. Professore, si parlava di magistrati. Esatto, si parlava di magistrati e di pensionati pubblici. Si parlava di magistrati e di pensionati pubblici. questa è la cosa che mi fa incazzare ancora di più. Qui stiamo parlando invece di aziende private, cioè naturalmente di pidocchi che sono all'interesse di servizi e interessi privati, e quindi come tali lo Stato li può calpestare e mettere sotto i piedi, mentre invece se si tratta di dipendenti o pensionati dello Stato e dei magistrati che compongono la stessa corte, hanno quelli soldi, vanno restituiti. E uno schifo vomitevole. Mi dispiace che la Corte Costituzionale, in testa col professor Giuliano Amato, scriva sentenze di questo tipo, significa solo che lo Stato è asimmetricamente totalitario nei suoi rapporti tributari con me, contribuente. E io questa roba non la rispetto, la considero illiberale, in violazione patente dell'articolo 23 e 53 della Costituzione, ed è puro totalitarismo dire il contrario. Non me ne porta un cazzo, mi carcerino. Dicono che manco di rispetto della Corte se dico che la disprezzo. Sì, signor della Corte, di disprezzo. Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta, cari amici, l'allegra brigata dei compari vi saluta. Carlo Alberto. Mario. Renato. Oscar, eccoci qua, andiamo adesso a un altro bel blocchetto di riflessioni su chiusi bilanci delle banche, non di tutte, ma insomma delle maggiori in queste settimane, e bilancio complessivo del nostro sistema bancario italiano, MPS al terzo aumento di capitale straordinario. Vi ricapitolo le perdite di MPS al 2011 meno 4,69 miliardi, 2012 meno 3,17 miliardi, 2013 meno 1,43 miliardi, 2014 eravamo alla fine, già sentiremo Viola che dichiara che era tutto risolto anni fa, 2014 meno 5,3 miliardi, complessivo in 4 anni 14,3 miliardi di perdite. Le rettifiche sono superiori, tre aumenti di capitale per 10 miliardi. C'era chi sosteneva due anni e mezzo fa, va ripulita tutta colpendo gli azionisti e riprivatizzata una volta ripulita presto, come si fa negli altri grandi paesi. Mi dissero che ero un buffone, che non capivo niente. Hanno salvato la fondazione molto cara al PD, questo è quello che hanno fatto, e non mi interessa se lo hanno fatto con la piena cooperazione di signori industriali che contano molto in Confindustria, perché non cambio idea. Hanno salvato la fondazione, ma la banca resta in ginocchio e deve sperare che qualcuno se la prenda, e mi dispiace dirlo perché questa è una grande banca di grande storia, tutto questo per arrivare ancora con 43 miliardi erotti di crediti deteriorati, cioè deteriorati mettendo insieme, sono onesto, non solo quelli in sofferenza, gli incagli, gli scaduti, i ristrutturati, e che però sono una quota ancora troppo scandalosamente elevata del totale degli impieghi della banca. Sono il 30% ancora dopo questi 4 anni, e questo è MPS, Banca Etruria commissariata, Banco Popolare un altro miliardo e 9 di rettifiche e perdite, ripeto, delle 11 maggiori banche italiane, 23 miliardi di margine operativo che si devono al 75% alle due maggiori due, però 25 miliardi di rettifiche, e i giornali italiani continuano a scrivere la colpa è della BCE. Allora, su una condizione così a rotoletti vorrei sentire un pochino Carlo Alberto che ne pensa. Ma guarda, i numeri sono certamente devastanti, però se posso dirti una cosa, il tema vero di quest'anno è che stanno toccando la governance che ha prodotto questi numeri, e questo è l'elemento di novità, perché che queste banche perdano e continueranno a perdere purtroppo lo sapevamo già, però i primi segnali del gennaio e febbraio di quest'anno sono, adesso andiamo a toccare le radici, le radici sono state il decreto sulle popolari che le forza a fare una trasformazione in SPA, e la dichiarazione di Visco e di Barbagallo che dice: care banche del credito cooperativo, non è più tollerabile questa situazione, dovete assolutamente e rapidamente modificare il vostro modello di governo e unificarvi e integrarvi. Questa è la novità vera, caro Oscar. La novità vera è che la BCE e la Banca d'Italia hanno identificato nei meccanismi di governance e quindi nei meccanismi di selezione del management, di controllo, di verifica, che evidentemente non hanno funzionato in questi anni, altrimenti quindi non saremo a questi livelli, la radice dei mali, e stanno intervenendo. Questo secondo me è l'elemento di grande novità, con discussioni ovviamente, perché l'intervento per decreto è un intervento dirigista, bisogna dirlo, ok? Banca d'Italia sta facendo un moral suasion, ma prima o poi arriverà una martellata sui denti dal mio punto di vista al mondo delle BCC e delle popolari. Però questo è il tema vero oggi, è intervenire sui modelli di governo e di gestione delle banche, perché non basta più guardare a valle i conti, bisogna guardare a monte chi le prende queste decisioni. E a monte chi le prende queste decisioni? Le fondazioni. Però, ripeto, qui ci abbiamo anche delle evidenze. Adesso, parliamo un po' un secondo. Io parlo dell'informazione. Io sono abbastanza scandalizzato nel vedere come, di fronte ad anni in cui abbiamo ammannito agli ascoltatori, ai lettori, l'idea che questo era uno dei sistemi bancari più forti del mondo, adesso, dopo anni e anni di crisi, siamo ancora a rettifiche gigantesche, a 330 miliardi tra sofferenze e incagli accumulati, che di fatto faranno rimbalzare il più delle aspettative positive della BCE e del quantitative easing della BCE, perché tanto il capitale resta impegnato da questa roba qua. Scopriamo solo adesso che bisogna fare la bad bank, e qui chiedo una riflessione a Mario, perché la bad bank, dopo aver detto che siamo il sistema più bello del mondo, adesso improvvisamente si apre il tavolo della bad bank e a noi tocca dire: va bene che bisogna liberare, però attenzione ai regali di Stato adesso sotto banco. Quindi no, non sei d'accordo? Sì, no, assolutamente. Sì, ho scritto più volte. Il problema è che c'è un prezzo per ogni cosa, anche per i crediti, diciamo, inesigibili. Il problema è capire quanto questo prezzo è sacrificato rispetto al valore scritto a bilancio. Se il mercato compra questi crediti inesigibili ben al di sotto del valore netto rettificato iscritto a bilancio, le banche hanno una perdita patrimoniale che le costringe, nei casi limite, a ricapitalizzare. Allora il punto della questione è questo, cioè quanto sono realistiche le rettifiche a crediti che sono presenti mediamente nel sistema bancario italiano. Tutto il resto sono tutti messaggi in codice che vengono inviati. Ora è probabile che lo Stato chiederà alle banche una garanzia, no? Questo potrebbe attenuare o rimuovere il rischio di aiuti di Stato, può darsi, però la materia è estremamente opaca e occorre sorvegliare. Il paragone con le banche spagnole, no? Si dice: ma le nostre banche non sono come quelle spagnole, ma in realtà non è proprio così, perché la Spagna alla fine ha chiesto soldi all'ISM, quindi ha chiesto aiuti all'Unione Europea per ripulire il sistema. Noi siamo in grado di farlo, proviamo, però o andiamo per mezzo di vie di mercato e ce ne assumiamo le responsabilità e i costi, oppure alziamo bandiera bianca e siamo costretti a chiedere soldi. Io avevo fatto un articolo pubblicato, credo, un paio d'anni fa sul Fatto, in cui praticamente prefiguravo che saremmo arrivati a questo punto. Anch'io, cioè che io ti garantisco, era esattamente 2 anni fa, perché è nello stesso periodo in cui andai personalmente, questo l'ho già raccontato, però personalmente da giornalista, non da altro, a parlare con l'allora presidente del Consiglio Mario Monti, dicendo esattamente quello che scrivevi tu, cioè che attenzione, perché Mario Monti mi ribadì che non intendeva minimamente percorrere la via degli aiuti europei, perché l'Italia assolutamente non si mette in condizione di chiedere nulla. Dico: ma guarda che finirete così tra 2 o 3 anni con un prezzo ancora più amaro pesantato all'economia reale, alle imprese e ai risparmiatori, come inevitabile alle famiglie. Lì siamo andati a finire e devo dire la verità, attenzione, perché adesso in questo veicolo che deve assumere i crediti deteriorati bisogna vedere a chi ci va in maggioranza, ci vanno davvero privati? Voglio vedere. B, cosa fa lo Stato? Dà un ruolo di garanzia sul sovrapprezzo? Sul meccanismo di liquidazione secondario se il veicolo assume e poi ripiazza? Sono tutti aspetti molto delicati su cui verremo esaminati col microscopio, non dai cattivi europei, ma da chi in Europa a un certo punto ha deciso, se aveva i guai, di doverlo dichiarare e beccarsi aiuti contrattati su come si fanno queste cose. Attenti che dopo che abbiamo raccontato altrimenti per anni che non ne avevamo bisogno, adesso facciamo il pateracchio e ci si mette d'accordo dietro la porta, e questa è una cosa scandalosa. Secondo me il rischio è molto forte, perché io per esempio quando sento, cioè abbiamo una dichiarazione che ho ripescato del naturale ministro delegato, che non c'entra niente con la gestione finita travolta e sotto processo che comprò per 9 miliardi di euro la banca per cui poi è travolta MPS, però questa dichiarazione della ministro delegato Viola è già un po' vecchiotta, per così dire. La sentiamo un secondo? Certamente la lettura dei giornali e la visione di alcuni programmi delle ultime settimane possono aver dato l'immagine di una banca in difficoltà. Colgo questa occasione per contrastare questa visione, perché è una visione completamente diversa da quella che è la realtà dei fatti. La banca ha deciso autonomamente nel corso del 2012 un percorso di rinnovamento che passa attraverso quella che io ho definito un'operazione trasparenza, ovvero un riesame del bilancio al fine di renderlo più coerente con quella che è l'effettiva situazione patrimoniale finanziaria della banca, e attraverso una importante operazione di rafforzamento patrimoniale, nell'ambito del quale trova luogo anche l'operazione di rafforzamento patrimoniale di supporto governativo dei Monti Bond. Allora, io rispetto, voglio dire, Viola, rispetto insomma il presidente Profumo, che non hanno creato loro il guaio, però queste dichiarazioni sono rese due aumenti di capitale fa e se la prendevano con noi giornalisti critici, che diciamo: guardate, siamo ben lungi dall'aver esplorato il mare delle rettifiche e del rafforzamento patrimoniale. Ripeto, due aumenti di capitale ma fa. Ma perché gli dicevano che tutti gli anni, l'anno dopo, ci sarebbe stata la ripresa? Ma io non so se è questo. Io so che il sistema. I crediti. Io so che hanno salvato la fondazione e che il sindaco di Siena, l'altro ieri, di fronte alle nuove perdite per 5,3 miliardi, ripeto, superiore a quelle del 2011, appena travolta la banca, ha osato dire che la colpa è di Draghi e la BCE. Il sindaco Valentini di Siena del PD, lui per primo dovrebbe vergognarsi di rilasciare una dichiarazione simile, visto che la banca, per così dire, non era amministrata dalla BCE, ma dal PD, dal sindaco del PD, dal presidente della provincia del PD. Loro diventavano amministratori delegati dopo aver fatto gli amministratori, questo lo sappiamo tutti. Dopodiché è vero anche che c'è un problema degli anni successivi, e il problema degli anni successivi non è ancora risolto, perché adesso si innalzerà la bandiera di impedire allo straniero di entrare in questo ennesimo aumento di capitale, perché i fondi sono entrati con l'aumento di capitale di 2,5 miliardi, e adesso faranno la loro parte, e ci sarà anche, ve lo preannuncio, un bel po' di speculazione, come inevitabile visto che i fondamentali sono un po' così, è inevitabile che ci sia. Adesso io non voglio dire, però voglio dire, mettiamocelo in testa, cose come questa e come la Banca dell'Etruria, su cui Banca d'Italia voleva intervenire, mi assumo la responsabilità giornalistica, voleva intervenire la Banca d'Italia un anno fa, la Banca dell'Etruria, un anno fa, perché i numeri erano già iper pregiudicati. Assolutamente. E c'è stato, e ci sono stati interventi e pressioni perché questo non avvenisse. Posso dirvi, non credete che sia il padre della Boschi, perché non c'entra quasi niente. Il problema è un pochino più complesso, perché c'era un equilibrio bancario regionale, c'erano le elezioni regionali della Toscana che arrivavano, si sperava che il cavaliere bianco dell'Etruria fosse la Vicenza, e che le questioni delle altre due popolari del nord-est, cioè Treviso e Montebelluna, se la vedessero tra loro. Non è arrivato Vicenza, Bazzoli ha detto no, perché c'è anche una vicenda che riguarda la Fondazione della Cassa Risparmio di Firenze. Sono rimasti senza cavaliere, la Banca d'Italia adesso travolge, commissaria, non travolge, rende possibile che vada avanti una banca che ha dei numeri pazzotici, il 100%, il 120% di costi income. Come possiamo stare in un paese in cui le banche hanno costi fissi del 120% delle revenue? Ma ti rendi conto? Lo sai meglio di me, caro Alberto, perché di questo fai di mestiere. Allora, io sentir leggere e vedere grandi giornali che dicono che la colpa è della BCE, mi vergogno, perché ti stiamo rifilando, cari risparmiatori, le premesse per nuove fregature. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati ai conti della Belva. Abbiamo lanciato questo argomento dopo i bilanci delle banche italiane, insomma una condizione un po' diversa da quella che vi raccontavo, una condizione in cui contano gli errori della politica, che non ha voluto chiedere per tempo, come altri paesi europei, una via europea per affrontare questa enorme mare di sofferenze e rettifiche che oggi impediscono anche poi la trasmissione al mercato di quello che avverrà tra poco, cioè degli effetti positivi del QI della BCE. E abbiamo un ospite, e se butto le vostre telefonate da sentire, abbiamo Andrea Boda collegato con noi. Andrea Boda è un blogger eterodosso, per così dire, in materie economiche finanziarie, conosciuto anche come Bimbo Alieno e così via. Intanto grazie di essere con noi. Grazie a voi. Che pensi di tutta questa bella tornata di numeri, rettifiche, eccetera? È colpa della BCE? Ma no, assolutamente no, è colpa del fatto che abbiamo lasciato troppo tempo questo sistema di governance in essere e non si è voluto intervenire. Anzi, la domanda che dovremmo farci oggi è perché improvvisamente si vuole intervenire, perché potremmo essere così ingenui da pensare che si interviene perché è la cosa giusta da fare, ma probabilmente sarebbe più intelligente chiederci che cosa ha determinato il cambiamento di approccio alla questione della governance. Tu dici c'è un disegno dietro per mettere insieme pezzi di chi non si regge più e intervenendo oggi si creano le condizioni della cornice perché ci sia una riorganizzazione pilotata. Diciamo che c'è un opportunismo, nel senso che c'è sicuramente la volontà di dare un segnale all'Europa di un cambiamento in termini di approccio e di serietà, ma nel farlo si vanno a creare dei presupposti per realizzare dei soggetti che possano in qualche modo andare poi in soccorso di altri soggetti che sono in chiara difficoltà, anche perché i grandi leader nazionali, Unicredit e Banca Intesa, hanno espresso chiaramente la non disponibilità, certo, a fare interventi che vanno a creare sovrapposizioni e non vanno a creare beneficio. Qui tra noi parlavamo proprio esattamente di quello che stai, senza far nomi, descrivendo tu, e ci chiedevamo che cosa UbiBanca prenderà di Banco Popolare e che cosa potrebbe prendere poi di MP. Tanto per essere chiari e concreti, come ipotesi, facciamo il nostro mestiere, ma è esattamente, mi pare di capire, quello che Andrea Boda. Credo che una parte importante nasce da una lettera mandata da una banca popolare circa un anno fa alla Banca d'Italia, esprimendo la disponibilità di intervenire su una banca, diciamo, grossina che era in difficoltà, per la quale arrivò un veto dalla BCE dicendo che una banca popolare col tipo di governance che aveva non poteva andare, non avrebbero autorizzato ad entrare su una che SPA. Banca popolare era? Una banca popolare FTSE MIB quotata su tutti. Nota bene che qui tra detti lavori ne parliamo come la stessa, andiamo sempre con i piedi sulle uova. Allora resta lì Andrea, sentiamo intanto anche un po' i nostri ascoltatori. Camilla da Milano, prego Camilla. Sì, ciao Oscar, sì, volevo intervenire innanzitutto su quello che hai detto all'inizio. Innanzitutto va detto che io sono una giornalista e seguo queste vicende da giornalista. Quando tu parlavi del Monte dei Paschi, evocavi il PD, le colpe del PD, la fondazione eccetera, non sono pienamente d'accordo con te. In questo caso non è né colpa della BCE ma né colpa del PD. Il PD ha colpa per il peccato originale nel caso della banca cinese, sì, ma gli errori che si pagano adesso a Siena e la situazione del Monte dei Paschi ha delle responsabilità anche al vertice operativo della banca. Ci mancherebbe. Possiamo sempre tornare indietro di... No, io parlavo solo la scelta sul l'ultimo aumento di capitale di dilazionarlo per salvare la fondazione. Tutto qua, chiusa parentesi, ma per il resto hai ragione. Non dilazionavano quell'aumento di capitale lì, e parliamo di dicembre 2013, la famosa assemblea del 28, esatto, con avanti di Sicilia contro Profumo. Se non dilazionavano l'aumento di capitale, oggi non c'era più né la banca né la fondazione. Quindi anche lì. Io ero perché la banca fosse ripulita 3 anni prima, ma però adesso non facciamo dibattito tra me. Comunque hai ragione tu, le responsabilità operative di chi la guida adesso, quindi continua su questo, perché hai ragione su questo assolutamente. Quindi responsabilità operativa è questo per il Monte dei Paschi. Altro discorso Banca Etruria, tutti i soldi Banca d'Italia aveva chiesto di intervenire, aveva messo gli occhi su Banca Italia e su Banca Etruria anche l'anno scorso. In realtà se tu vai a vedere i regolamenti di Banca Etruria, ti parlo di regolamenti che erano in vigore almeno fino al 2012 nel Consiglio di Amministrazione, pochi sanno che in Etruria uno qualsiasi dei 15 membri del board, cioè del Consiglio di Amministrazione, poteva ottenere con una semplice firma, quindi bastava firmare, fino a 20 milioni di affidamenti per sé, per le sue società e per i suoi amici. Bello. Questo mi chiedo io, Banca d'Italia lo sapeva, perché altrimenti vuol dire che non vigilava. Perché nessuno ha alzato un cartellino giallo al tempo, parliamo del 2012? Perché quando nel pomeriggio del 2010 Banca Etruria ha concesso un finanziamento di 10 milioni di euro, 10 milioni, a un gruppo immobiliare di soldi, non lo conosco nemmeno, di Forlì, e poi la mattina dopo finì in amministrazione controllata, nessuno alzò un cartellino giallo? Queste secondo me sono domande da farsi. Non è colpa della BCE. Camilla, figurati, ma io aggiungo, ho trovato ieri sull'inchiesta un'intervista di uno dei più importanti industriali di Arezzo, che anche di fronte all'intervento di adesso sulla Banca Etruria dice che è una vergognosa iniziativa della Banca d'Italia per impedire la riforma della Banca d'Italia, e difende a spada tratta esattamente cose come quelle che citi tu, che lì davano credito agli amici e gli amici, perché dice: noi qui siamo il 3,1% dell'export italiano, vogliono mettere le mani sull'oro di Arezzo, l'oro, perché lì c'è una filiera dell'oro, non stiamo parlando degli elfi, eccetera eccetera. Allora, come vedi, e quel signore, ripeto, stiamo parlando di un pezzo importante di Confindustria di Arezzo, e questa è la maniera collusiva delle classi dirigenti. Io rischio la pelle nel dirlo a questo microfono, non so se è chiaro a chi è in ascolto, però mi prendo la responsabilità di quello che penso. Luca da Arezzo, Luca, prego. Sì, buongiorno Oscar, guarda, mi hai anticipato, volevo un po' velocemente richiamare questo quadro che stai facendo te. Allora, prima di tutto in Toscana, sia Siena più in grande che Arezzo più in piccolo, voi dovete immaginare che comunque c'è una situazione politico, l'ascoltatrice prima parlava del PD. Bisogna innanzitutto tenere presente che il PD locale in queste città non c'entra nulla col PD nazionale, quindi ci sono dei personaggi che hanno attraversato tutto l'arco politico nel corso degli anni e ora sono nel PD, che ci sono sempre state, quindi ci sono dei personaggi delle associazioni politico-massoniche. Voi dovete immaginare che Arezzo, seppure sia piccola, ha più logge massoniche di Firenze, per intenderci. Sono città che nel passato, fino a 10 anni fa, erano ricche. Arezzo navigava nell'oro più di Vicenza, anche se poi negli ultimi anni la crisi chiaramente ha inciso profondamente. Ci sono delle cordate con supporti politici, massonici, di professionisti, eccetera, che hanno portato avanti la banca negli ultimi 15 anni. Sì, sì. I professionisti all'interno della banca che potevano mettere riparo, che avevano evidenziato nei conti problematiche, sono già stati fatti fuori, sono state tagliate le teste da 10, 15, 20 anni. Quindi il giochino. Cioè, Luca, se per questo avevano arruolato anche ex dirigenti della Consob per tentare di pararsi il culo, come Salini, l'ex capo della divisione. Tant'è vero che la Procura di Roma ha aperto un'indagine contro aspetti collusivi con le autorità, ipotizzando che qualcuno alla Consob, grazie agli ex dirigenti Consob che erano in Etruria, insomma abbia parato il culo all'Etruria. Quindi Luca, capisco tutto, però se io leggo l'intervista, ripeto, qualcuno mi ha detto fai nomi e cose, non c'è nessun problema, si chiama Andrea Boldi, il presidente di Arezzo Fiere, quello di cui stavo parlando prima, quindi non è che faccio l'omertoso, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Vedo ancora signori imprenditori ad Arezzo che credono di poter andare avanti in quel modo lì, e poi ecco perché l'informazione italiana diventa così collusiva anche sulle banche medie, grandi, eccetera eccetera, e vi ammaniamo fesserie, e dopo anni e anni siamo ancora a rettifiche, perdite miliardarie, aumenti di capitale a rischio eccetera, di cui di fronte ai quali poi vi dicono oh, gli stranieri, ma no, il problema è avere delle gestioni e delle governance che rispondano a dei disastri. Questo è il problema. In effetti il tema della governance è il tema centrale. Ora, qui ha ragione Andrea Boda quando dice probabilmente questi interventi sono volti anche a creare un polo che sia in grado di prendersi cura di queste grandi malate che sono MPS e Carige, ed è vero. C'è anche invece l'alternativa di offrirle sul mercato internazionale e internazionalizzarle, cioè se dobbiamo fare l'Unione Bancaria Europea non possiamo continuare a concepire un mercato nazionale del credito. Strade. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della belva. Ed eccoci qui tornati verso la fine, gli ultimi minuti di questi conti da belva del giorno di San Valentino, un giorno di San Valentino che abbiamo un pochino forse oscurato, ma per essere più amorosi poi con i vostri affezionatissimi compagni di cuore della vita e per passare insieme a loro una meravigliosa serata di fronte a Sanremo. Questa è la mia opinione. Invece Carlo Alberto so che è un grande fan di Sanremo, assolutamente. Si è strappato non i capelli, perché lui era un fan della Tatangelo. Quando gli hanno buttato fuori da Tatangelo ieri sera è successo scambi di SMS, una tragedia. Vabbè, io però sono per le gambe di Nazilli, lo so, adesso mia moglie si incazza. Vabbè, detto questo, abbiamo telefonata ancora Stefano da Brescia, perché è una coda dei temi che abbiamo trattato. Stefano, come la pensi? Sì, buongiorno a tutti. Sì. Volevo fare merito a Robin Tax. Sì. Una domanda e poi un'affermazione. Sì. La domanda è: ma quelle aziende che non l'hanno pagata e quindi adesso hanno avuto ragione a non pagarla, cosa succederà a queste aziende? E poi, a questo punto, non conviene quando c'è una tassa o una manovra, qualsiasi cosa che sia in odore di incostituzionalità, non rispettarla, perché tanto prima o poi verrà fatta saltare fuori questa cosa, quindi gli italiani è meglio che si tengano fermi in questo caso e aspettino la Corte Costituzionale? Allora, perché arriva prima l'esazione forzosa della Corte Costituzionale di solito. Stefano, io devo ricordarti che nel nostro ordinamento vige un principio: anche di fronte a fonti giuridiche non perfezionate o cassate, l'obbligo tributario che era stato imposto a quella fonte giuridica nel nostro ordinamento resta. Ti faccio un esempio concreto: un decreto legge che stabilisce, in violazione dell'articolo 23 della Costituzione, obblighi fiscali, stabilisce da subito, il decreto legge, ipotizziamo, non viene convertito in tutto o in parte in quella norma fiscale. Il contribuente è comunque tenuto nella parte a pagare. Questo forse, non so se lo sapete, ma funziona così. Ecco, quindi se qualche azienda rende indietro i pagamenti per quegli anni per i quali è stato giudicato incostituzionale la tassa, ma non si restituisce, dovrà pagare, se questa è la tua risposta, perché il nostro ordinamento funziona così, è un ordinamento in cui lo Stato ha sempre ragione, lui sul fisco, ma solo lui. Allora, conclusa in questa maniera così amorosamente, il nostro fidanzato si chiama Stato, solo che non lo abbiamo scelto, per così dire, nella nostra vita è presente come nessuna moglie, nessun marito farebbe mai, i danni se li prende, non se li fa. Io mi ricordo una tassa di 80.000 lire un sacco di anni fa, che credo di essere stato l'unico stupido che aveva pagato, perché poi allora cioè, siamo come sempre, caro Renato, al momento in cui tu ci racconti cosa non si può fare ma invece si fa, allora, che cosa ci presenti questa settimana come esempio? No, quest'anno questa settimana parliamo della delega fiscale. Allora, la delega fiscale dovuta per tutta una serie di leggi che non vi sto a raccontare perché poi se no ci perdiamo, conteneva tutta una parte di attenuanti previste per i piccoli errori, quindi i piccoli errori. Poi esplode la vicenda Berlusconi, la franchigia poi del 3%. Esplode la vicenda del 3% e il caro Silvio, il nostro amatissimo ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, riesce a bloccare tutto, non solo per 20 anni in Italia, ma anche quando non è più presidente del Consiglio lui, basta che una cosa tocchi lui anche solo marginalmente e non si fa più. Allora, peccato che quando parliamo di irregolarità formali, perché nel frattempo doveva essere, adesso arrivare al 20 febbraio ha detto il governo, esatto, questo per eleggere il capo dello Stato, eletto il capo dello Stato, Renzi ha detto no, se ne parla a maggio adesso. Ne parliamo a maggio perché c'è dentro quel famoso 3% sulle frodi fiscali, no? Allora, tutta questa cosa contiene praticamente la semplificazione di tutto ciò che è irregolarità formale. Le irregolarità formali non comportano un danno erariale, cioè ad esempio su tutta la parte dell'IVA, no? Tu fai un'irregolarità formale, devi versare il 100% dell'IVA su una cosa formale, cioè non è che tu non hai versato l'IVA. A oggi la sanzione che dovrebbe essere modificata appunto dal decreto delega è dal 100 al 200% dell'imposta dovuta per un'irregolarità formale. Cari Topolini in ascolto, perché noi che purtroppo dobbiamo fare queste dichiarazioni, non è che non ci cambi poco se questa roba resta com'è. Ma non su una cosa dove tu l'IVA non l'hai versata, esatto, su una cosa dove hai sbagliato a scrivere una riga. Esatto. Allora, tutte queste cose qua sono quelle che poi fanno impazzire le aziende, fanno perdere alle aziende la voglia di lavorare in Italia, detto sinceramente, perché poi, io lo dico sempre, sono un monomaniaco su questo, voi pensate al direttore finanziario di una multinazionale che deve andare a spiegare al suo capo a Londra, a New York, a Boston o dove cavolo è, che ha pagato il 100% dell'IVA perché un'impiegata si è sbagliata in una riga a scrivere, a mettere una X. Questi dicono, ma scusa, parla con l'Agenzia delle Entrate, perché là succede così. Questo gli risponde, ma parlare con l'Agenzia delle Entrate da noi non esiste, dobbiamo fare la causa, magari andiamo in Cassazione fra 20 anni, poi come la Robin Tax vinciamo. E non è detto che, come si è visto, ci diano indietro i soldi. Ah no, non te li danno? Allora, secondo voi il direttore finanziario di un'azienda che è seduto a Boston e per cui l'azienda in Italia è un puntino su una cartina, cosa fa? Ti dice semplicemente grazie che me l'hai detto, dall'anno prossimo andiamo. Eppure Renzi dice che rimuovere il penale agevolerà l'attrattività del paese. In realtà, da quello che dice Renato, se ci sono sanzioni così pesanti, no, che sono anche così formalisticamente persecutorie, l'attrattività del paese crolla. Io posso dire una cosa, questo dico vedendo in Astrombarda sono scritto un terzo delle multinazionali che operano in Italia, quindi stiamo parlando di un campione, eccetera, eccetera. Questa indagine informale, il penale alle multinazionali in Italia. Il problema è il penale in Italia serve abbassarlo perché il conto dello Stato è: preferisco incassare di più sulle sanzioni ed espandere la base imponibile piuttosto che perdere anni per mandare la gente in carcere. Ma sulle aziende internazionalizzate il problema sono la follia degli adempimenti e l'enormità delle sanzioni per gli errori formali che sono insanabili. Ripeto, a oggi le firme su un errore formale su una fattura su cui tu paghi ti espone dal 100 al 200% dell'imposta in più da pagare, una follia. Questa roba non ha uguali in nessun altro ordinamento, perché come capite IBM o Siemens eccetera non fanno delle frodi fiscali che poi rischiano il penale, perché non stiamo parlando né di finanza creativa né di mobiliaristi che se riallocano. Le fanno sicuramente qua in Italia. Quindi sulla fattura, in questo hai ragione a dire che Renzi quando richiama il penale confonde cose che sono sì diverse. Ma lo fa a oltranza, non ho capito se diciamo finge o proprio non riesce a cogliere la differenza, perché ogni intervista cade sempre su quel visto punto. Visto che non riusciamo a capire chi l'ha scritta sta la franchigia del 3% di depenalizzazione delle frodi. Non lo sapremo mai. Comunque ragazzi, i compari del Contrabbando vi augurano una buona San Valentino e fate qualcosa di meglio che Sanremo, vi prego, a sabato prossimo, ciao. L'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.